Buongiorno, siamo i bambini della classe terza B di Volano. Si può presentare per favore nome, età, professione? Allora, nome Luca Cagliari, età 54 anni. Più anni del mio papà. Professione floricoltore. L'attività, allora, l'ha fatta iniziare mio papà, ancora nel 1978, per cui più di 40 anni fa. E da lì siamo partiti e siamo arrivati qua, insomma, a portarlo avanti noi. Allora, il mio sogno da piccolo sarebbe piaciuto fare il camionista, solamente che mio papà aveva i trattori, un'attività appunto di agricoltura, e mi sono appassionato. Nel mio caso la cosa più importante è stata la famiglia, perché avere una famiglia unita ti dà intanto un aiuto forte nei momenti di difficoltà. Ti aiuta perché più teste pensanti, più riescono a focalizzare meglio l'obiettivo, per cui molte volte, sai, uno magari ha dei sogni che magari sono più grandi di quelli che sono poi le possibilità, e dopo tanta buona volontà, tanta energia, ecco, non scoraggiarsi quando qualcosa va male. Da 1 a 1000, quanto le piace il suo lavoro? Da 1 a 1000 direi più di 1000, 1001. Mi piace tantissimo, non farai cambio in questo momento con nulla, e a volte anche quando hai momenti di sconforto penso che comunque è bello avere un'azienda, anche averla vista cambiare nel tempo, per cui sono veramente contento. Quando io ero grande come voi e passavo per il centro del paese, ogni vetrina che voi vedete piccola, che adesso sono chiuse, erano negozi, erano attività, c'erano, che ricordo io, 5 panifici, 3-4 negozi di frutta e verdura, c'erano 3 o 4 macellerie, ce n'erano più di 30-40 attività nel paese. Adesso si è svuotato. Nei momenti di pandemia, 2 anni fa, quando eravamo tutti chiusi in casa, perché tu non potevi uscire dal paese, dovevi andare nell'attività che c'era. E la famiglia cooperativa era piena di persone che andavano a fare la spesa. Ecco, bisogna ricordarsi anche di queste cose quando va bene, bisogna ricordarsi anche dei momenti che andava anche male. E quando c'è stata la chiusura, non so se voi vi ricordate, c'erano delle attività che potevano rimanere aperte, delle attività che dovevano rimanere chiuse. E diciamo che il legislatore aveva anche detto le attività primarie dovevano rimanere aperte. Le attività primarie, quelle che sono le attività che ci permettono di sopravvivere, per cui il negozio di alimentare è fondamentale, è un'attività primaria, come doveva essere fondamentale la farmacia aperta. E una cosa che è stata recepita, che è stata vista poi da tutti, l'importanza anche della pianta come attività primaria. Noi siamo in un ambito ampio che è dell'agricoltura, e l'agricoltura è un'attività primaria, e hanno permesso a noi, aziende floricole, di essere aperte. Perché? Perché vendevamo la piantina, qualcuno di voi prima ha preso il croton, chi è che ha preso io, il croton? Io. Tu, mi ricordo che te l'ho dato, però ecco, è diventato gigantesco. Alcuni venivano a prendere le piante di pomodori, di insalata, E queste attività come la nostra, cos'è che serviva? Serviva per dare l'attività, per farti i pomodori, ma soprattutto serviva per tenerti impegnato in quel periodo di chiusura, per farti capire anche, diciamo, che c'è qualcos'altro. Perché a casa poi non puoi guardare la televisione tutto il giorno, oppure i videogiochi, oppure anche fare i compiti, devi avere un'altra attività. E la pianta, la coltivazione, il rinterro, il giardino, il tagliare la siepe, queste cose sono attività che sono anche poi, che valorizzano anche l'individuo, no? Per cui a noi hanno dato questa possibilità, però è stata anche poi capita dalle stesse persone a casa, che hanno capito l'importanza di avere un giardino, di avere un terrazzo dove poter mettere magari le piantine. E guardate che non è secondario, perché dopo la chiusura degli esercizi, dopo la riapertura, noi siamo andati come attività in giardini che erano incolti, che la gente lo aveva e non lo valorizzava. Perché? era più importante magari altre cose, però in questo momento qua che ha capito che la casa, diciamo, era il tuo bene rifugio, il giardino ti valorizzava anche la tua vita, anche il tuo modo un po' di vivere meglio. E abbiamo trovato veramente giardini da dover metterci mano, abbiamo il nostro lavoro, lo facciamo, però c'è stata anche un po' una riscoperta di quello che è il verde, di quello che è l'importanza della pianta, ecco. E era anche per farvi capire che ci sono delle attività che magari non direttamente vi fanno sopravvivere, però vi danno anche, diciamo, il piacere di vivere bene, ecco. E questa è anche l'attività della coltivazione delle piante. Il bello. Noi coltiviamo bellezza, l'abbiamo messo nel nostro logo, è stato uno slogan che è nato dopo un'attenta ricerca, anche perché la pianta è bellezza, l'albero è bellezza in tutte le stagioni. C'è quella pianta lì che adesso è senza foglie, la vedete? Sì. Questo qua è il ginkgo biloba, è una delle piante più antiche al mondo. Questa pianta qua praticamente dicono che abbia più di 200 milioni di anni di storia. Cioè, hanno trovato ancora prima dell'era glaciale delle foglie e dentro nei fossili, no? Questa pianta qua, voi la vedete? Quando c'erano i dinosauri, sì, esatto. Quando c'erano i dinosauri c'era l'impronta delle foglie. Esatto. E quella è una foglia anche particolare, ne potete anche prendere una poi da portare a casa, da far vedere. Ecco, è una foglia che è particolarissima. Questa pianta qua la vedete senza foglie in inverno, poi in primavera con i germogli, una foglia verde scura durante l'anno, poi diventa gialla e infine cade. Cioè, questa proprio è il mutare anche delle stagioni, è caratteristica come pianta. E coltivare la bellezza è coltivare anche le piante così e vedere un po' tutte le fasi anche di sviluppo. E poi diciamo che il nostro lavoro segue tanto la stagione, lo scorrere del tempo, la stagione, bisogna dare il giusto tempo a tutto, ecco, non bisogna pretendere le cose subito. Quando si semina qualcosa bisogna dare il tempo che arrivi la piantina e poi che arrivi il frutto.